Mattino Allora in podcast, in diretta il martedì e giovedì alle ore 7:20 e in replica il mercoledì e venerdì alle ore 8:20, sempre e solo su runtimeradio.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime Radio, bentornati a questo nuovo appuntamento, un po' in ritardo perché, come sapete, abbiamo saltato per qualche settimana, di Quando eravamo futuro. Questa sarà una puntata dove cercheremo di essere pregni, perché il conduttore potrebbe non arrivare alla fine della puntata. La fine della puntata mi dice tutto, tra l'altro. E intanto saluto i miei amici e compagni di viaggio, Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, ciao, ce la farai, vai che ce la fai, dai, ciao, ciao, dai, dai, oggi dai. Ho fatto il Pizzfizer. Esatto, il Pizzfer. E Davide Gatti. Buonasera, buonasera, io sono già stato pfizzerato e quindi sono già a posto, sono sopravvissuto e siamo qui. Sia prima che seconda? Sia prima che seconda, sì. Bene, sì. Bravo, bravo. E ovviamente Roberto Tomaiuolo. Ciao, buonasera a tutti, anche quelli geneticamente modificati dal vaccino, come esatto, col 5G. Ma io oramai ho concordato con tutti, annunciando che quando farò la seconda dose poi mi faccio il tatuaggio col simbolo del wifi e del bluetooth. Quindi sarà una provocazione universale che capiranno in pochi, ma secondo me qualcuno lo capisce, insomma. Bene, bene, bene, bentornati. Dicevamo, abbiamo fatto un po' di ritardo perché durante queste settimane ci sono state varie faccende, insomma, tra l'inizio di Eurocalcio 2021 che insomma ha già fatto le sue due prime puntate, tra l'altro molto divertente, molto piacevole, e insomma un prodotto che ci sta riuscendo bene, diciamo, siamo molto soddisfatti per quello che è. E poi perché comunque, vabbè, ci sono stati vari ritardi, varie questioni, chissà, insomma, segue. C'è stato anche il trasloco, un nuovo ufficio per quanto riguarda me, e quindi insomma, vabbè, vari impegni. E oggi c'è il vaccino che potrebbe non farci arrivare alla fine della serata, come abbiamo detto, ma ce la facciamo. Intanto salutiamo Melanie in chat, che già ci saluta, benvenuta. Tra l'altro abbiamo anche un messaggio di posta oggi, incredibile, una cosa. In realtà avrei potuto andare a vedere se c'erano altri commenti, ma non l'ho fatto perché sono malato. E poi la salutiamo prossima... Girasole, salutiamo? Salutiamo Girasole, anche se non c'è, ma arriverà insomma, prima o poi, insomma. Questa è la puntata di Davide Gatti, l'abbiamo intitolata Immaginazione, giusto? Sì, sì, titolata Immaginazione, che poi si può estendere con anche dal logo, dall'immagine che hai messo per il titolo, dove quando per divertirci bastava l'immaginazione. Esatto, ma io sono andato sul sintetico, capisci? Esatto, esatto. E questo era questo, il sottotitolo. Scusami, permettimi, questa è una cosa che questi agganci che mi arrivano mi costringono poi a raccontare degli aneddoti che, diciamo, la maggior parte delle persone non fregano niente, ma noi li conosciamo. Quando abbiamo iniziato a fare i podcast, e soprattutto in particolare archeologia informatica con Carlo Sant'Agostino e Stefano Paganini, Stefano Paganini voleva che io mettessi nei titoli prendete la descrizione dell'episodio, cioè tipo la storia di quando quello si è inventato quella cosa incastrata nella... No, guarda che il titolo del podcast deve essere sintetico. Allora va bene, podcast del quando quella volta, va bene, e alla fine li mettevo io i titoli. Ci deve essere quel quanto basta per instigare la curiosità, non la soluzione, sì, a tutto, se no leggi il titolo e dici, ah, vabbè, ho capito. Basta. Infatti il primo episodio si chiamava Il primo computer, basta, non importa se era così o no, capito? Però cioè, lui prendeva tutti sti titoli, vabbè, comunque dai, abbiamo già divagato più che sufficienza. Vi dico solo, ci sarà uno spot al centro dell'episodio, giusto perché insomma... serve anche per sponsorizzare nostre iniziative, cose che comunque sono collegate a Runtime Radio, e non ci saranno brani perché con i brani non ho fatto un tempo a scaricarli, e poi perché se mettiamo pure con i brani io può essere che non, veramente non ci arrivo. Quindi E poi se viene un brano così tipo Bungalow, lo mettiamo lì. Bungalow. Esatto, lo vado a cercare, quello ce lo posso andare a cercare. No, ma stasera poi a dire la verità, non c'erano dei brani particolari per no, l'episodio. No, infatti ti ho messo uno, ha messo giro tondo. No, dai, già detto, non ce la posso. Comunque, sei stato citato. Non so se hai sentito l'altra sera durante la partita con No Bungalow. Quindi esatto, l'ho sentito. Esatto. Quando sei entrato alla fine. Esatto, lo bungalo di qua, lo bungalo di là. Vabbè. Sono cose che dovrebbero renderti fiero e orgoglioso, insomma. Sì, infatti, quando ho sentito me la ridevo. Dai, va bene. Prendi possesso, Davide. Vai. Bene, niente. Allora, iniziamo con il nostro solito intro. Tenebroso. Madonna, come sai? È una puntata pure carina, tutto sommato. Sì, no, tenebroso nel senso, vorrei fare la voce da speaker degli anni qui. Che furono, ma non mi viene perché non sono uno speaker. La voce da speaker. Esatto, tu hai la voce da speaker. Allora, io ho studiato anni e anni di voce da speaker. Va bene, faccio fatica a iniziare così, però va bene, dai. Niente, comunque, come appunto dicevamo, il sottotitolo era Quando per divertirci bastava l'immaginazione. Molti di voi, no, molti di quelli che hanno vissuto nelle periferie delle grandi città, si organizzava per monopolizzare il piccolo pezzetto di terreno erboso che aveva vicino a casa. I più fortunati avevano un cortile privato, ma molti si accontentavano di quel pezzetto di bosco avanzato durante la creazione di uno svincolo, di una grande strada, quella grande curva che formava un cerchio e che isolava questo piccolo atollo di terreno dove noi tutti con la sola potenza della nostra immaginazione passavamo interi pomeriggi a giocare, immaginando viaggi nel tempo, nello spazio, inseguimenti, luoghi di ogni genere, foreste, ponti da attraversare e linee immaginarie da tracciare, il tutto divertendoci a più non posso. Era difficile uscire di casa senza pensare che qualcuno avrebbe proposto uno qualsiasi dei tanti giochi che si potevano fare. Si trattava solo di capire in quanti eravamo e come ci si poteva organizzare. Ci si consultava e una volta deciso si iniziava. Se era necessario si facevano le squadre oppure ci si disponeva nel modo opportuno. Si trattava solo di entrare tutti in sintonia e il campo di gioco prendeva forma. L'albero era una panchina, creavano una porta immaginaria e dei sassi appoggiati per terra creavano le linee virtuali che delimitavano le aree. Bastava quello per farci costruire nella nostra mente un vero campo da calcio. Una delle cose belle di questo tipo di giochi è che erano abbastanza standard e ovunque si andasse, quando si decideva per un gioco, le regole erano quasi sempre le stesse e tutti nel momento della decisione sul quale fare eravamo già sintonizzati e bastava nominarlo per iniziare a predisporsi per il gioco. Altre volte, quando si andava in terre straniere, potevano esserci giochi nuovi o molto diversi pur chiamandosi allo stesso modo, ma bastavano poche spiegazioni e si imparava in pochi minuti. E se valeva la pena, lo si portava anche a casa propria. Per i giochi di squadra c'era il rito della selezione, dove io, che ero un po' cicciotto, non venivo mai scelto per i giochi sportivi. Ero sempre l'ultimo ad essere considerato e finivo quasi sempre in una squadra dove non mi avrebbero voluto. A meno che il gioco non favorisse i ciccioni, tipo la cavallina, dove ero sempre il primo ad essere scelto invece. Nel caso di giochi sportivi, la squadra che era costretta a prendersi me si prendeva anche il migliore di quel gioco per bilanciare. Quando eravamo piccoli, noi giocavamo ai giochi da piccoli e vedevamo i grandi che giocavano ai loro giochi da grandi, sognando un giorno di poter giocare anche noi, come loro, a quei giochi. Ricordo ancora l'emozione quando per la prima volta fui chiamato a giocare ad un gioco da grandi. Quello significava che ormai non ero più un bambinetto. E così il ciclo si ripeteva, tramandando questi giochi con regole non scritte, tra generazioni che hanno popolato i cortili o aree verdi o qualsiasi altro posto di qualsiasi forma per chi ci viveva. Era il suo piccolo angolo di paradiso, dove probabilmente ha trascorso le ore più felici e spensierate della propria vita. E questo è quello che ci permette di trasportarci un po' in quel periodo, in quel momento, in quella situazione dove io in questo racconto ho parlato di quello che effettivamente è quello che mi è capitato nella vita. Nel mio piccolo avevo il cortile privato, avevo questo piccolo pezzo verde che noi chiamavamo pineta, che era lo svincolo di una strada, di una grossa strada. C'era questa curva che formava questo cerchio di terreno che è diventato il nostro posto dove andavamo a giocare. E ricordo veramente sempre con tanta, cioè, non ci pensavo più, ma pensandoci adesso, che veramente noi arrivavamo giù e giocavamo in campi da calcio che non avevano righe, non avevano segni, non avevano porte, non avevano niente, eppure noi vedevamo le righe, vedevamo hai tirato fuori, non era dentro nella porta, e non c'era niente, c'era per terra magari un sasso, che ne so, come riferimento, E un albero era un posto dove si potevano fare 3.000 giochi, insomma, e veramente ci immaginavamo veramente le cose, eppure ci siamo divertiti e giocavamo veramente con soddisfazione. Bene, indubbiamente sì, devo dire che hai dipinto anche questa volta, così come l'altra volta, diciamo, uno scenario che è abbastanza compatibile e penso universale, no? Per i ragazzi, o chi è stato bambino magari negli anni 70 in particolare, non che non esistessero i giochi, cioè, perché per esempio rispetto alle generazioni precedenti che magari veramente non ce li avevano, noi ancora eravamo comunque abituati a giocare non necessariamente con i giocattoli, no? Perché comunque eri magari in posti diversi, non è che ti portavi dietro i giocattoli, eri al mare, non è che c'avevi i giocattoli, c'avevi a casa, eri in un'altra situazione. E ovviamente quando poi alla fine, cioè, il linguaggio più universale è proprio quello del giocare ai giochi poi più comuni, no? Che come diceva magari Davide, ci sono alcune cose che magari erano più regionalizzate, diciamo, no? E alcune che erano universali, ma secondo me erano tutte universali, solo che magari in un posto li chiamavi tizio e in un altro posto li chiamavi, esatto, Caio, esatto. Perché poi alla fine, cioè, come il gioco della campana, no? Cose del genere, poi alla fine comunque quelli erano, no? Non è che nascondino potevi chiamare nascondarella, insomma, fondamentalmente, ma tanto poi il concetto era questo. Beh, io magari prima di fare un elenco vorrei sentire un attimo Carlo e poi Roberto, insomma, se hanno anche loro poi questo tipo di esperienza. Ovviamente, essendo nato nel 1970, non posso non dire di aver fatto meno di questa esperienza, anche se io devo dire la verità, io sono sempre stato uno abbastanza, non molto, come si può dire, di stare insieme alle altre persone, sì, mi piace, ma schifo. Fino a un certo punto, poi dopo mi rompevo le palle, devo stare da solo. Era uno che dopo un po' si autoisolava, perché così come carattere. Vabbè, penso che ognuno poi ha avuto le sue, quindi i giochi di società mi piacevano, mi divertivano, ma fino a un certo punto, dopo un po' mi rompevo le palle, e quindi volevo, diciamo, non ero mai troppo entusiasta di giocare a nascondino, o piuttosto che ce l'hai, quei giochi lì, soprattutto quelli dove si correva. Certo, noi magri e snelli e sportivi, all'epoca io ero magro e snello, però troppa fatica, mi rompevo le palle lo stesso, perché fatica. Per me era monotono il gioco. Certo. Io sono ingrassato da grande, sono diventato ciccione dopo il 1995. Allora è vero che i computer fanno ingrassare? Beh sì, il più che computer è stata l'università e poi il matrimonio principalmente. È sempre colpa del matrimonio, alla fine, insomma. Beh, matrimonio, io praticamente sono ingrassato come mia moglie quando era incinta, io prendevo gli stessi chili. Infatti ho detto, io per solidarietà. Però tu non hai fatto un figlio, cacchio. Io però alla fine non ho espulso niente, mia moglie sì, quindi c'è stata questa piccola differenza. No, vabbè, dai, per ride, no, per tanti motivi, penso anche cambio del metabolismo, insomma, tante cose con l'età si ingrassa, e poi a me anche, io non ho mai smesso di mangiare tanto, quindi una volta magari riuscivo a smaltirlo e adesso invece non più. Comunque, dicevo, i giochi in generale mi piacevano fino a un certo punto, poi io preferivo isolarmi e fare leggere Topolino, soprattutto il mio sogno ideale, cioè il mio paradiso terrestre quando ero piccolo era il dondolo Giusotto in giardino, e la pila di topolini da leggere. Era, per me era il paradiso terrestre. Mi mettevo sdraiato sul dondolo con la pila di topolini e passavo il pomeriggio intero con l'ombra della betulla, eccetera. Quella per me era fantastico. Però è ovvio che ho giocato a tutti i giochi di compagnia, eccetera. Soprattutto qua. I giochi di compagnia, bello. Sì, ma d'inverno poco, perché io... D'inverno preferivo sempre stare a casa, comunque quando c'era la scuola già vedevo i miei compagni durante la scuola, per me era già troppo, no? Poi dopo il pomeriggio non volevo più vedere nessuno. Invece d'estate al mare c'era molto più, ecco, una cosa che abbiamo già raccontato, le nostre estati, la mia ma quella di tutti noi negli anni 70 era andare, e questo l'abbiamo già raccontato in un'altra puntata, prendere e andare in un altro paese, che per me era Borgo Verezzi, e vivere lì 3 mesi, dove incontravi le stesse persone tutti gli anni, quindi c'era la compagnia del mare, no? Cioè, certo. Tu sapevi che andavi là e incontravi gli amici che avevi l'anno prima e che l'anno dopo e così via, quindi c'era questa compagnia del mare che era quella effettivamente con cui si facevano tutti i giochi. Mi ricordo i giochi più belli in assoluto erano la guerra con le bombe d'acqua. Bella, era fantastica, proprio. Poi noi la facevamo seria, perché mica tirarsi le bombe d'acqua così, no, era proprio la guerra. Si creavano 2 squadre che avevano il capitano, il sergente, i soldati semplici, eccetera. Si sceglieva un territorio in cui si facevano le barricate, cioè bisognava fare gli appostamenti, eccetera. E se uno veniva colpito da una bomba d'acqua era morto, quindi non poteva giocare, sì, era morto. Noi questa cosa la facevamo con i pidosfori. Che non so se sapete, i pidosfori sono, cioè, presente quelle piante grasse che si trovano spesso e volentieri nei località di mare che fanno quei pallini, quelli che si attaccano, che pungono? No, non pungono, però so duri comunque, nel senso, sì. Noi praticamente andavamo per questi cespugli. Sono rossi, i pallini rossi? No, i pallini sono verdi e rossi, sì, vabbè, comunque. Sì, ho capito, sì, ho presente. Noi andavamo per questi cespugli, staccavamo tutti questi cosi, c'avevamo praticamente sti sacchi pieni di cose, e si facevano le guerre tra fazioni, tra noi e quelli del consorzio dall'altra parte, si facevano gli appostamenti e cose. Stessa cosa, solo che faceva più male della bomba d'acqua. Vabbè, la bomba d'acqua però rimane, cioè quando veni colpito eri bagnato, quindi se uno era bagnato si vede, no, tu sei morto, via, non puoi fare. Dice, no, io non sono stato preso, però c'avevi un labbro così, tutto il sangue. Era proprio seria allora la guerra. Li puntavano più alla morte. È una brutta storia. Ma guarda, facevamo veramente degli appostamenti. Mi ricordo che quando poi crescendo, diventando grandi, diventavano sempre più serie, no? Gli ultimi anni addirittura ci vestivamo in mimetica per proprio mimetizzarci negli anfratti, eccetera, fare gli appostamenti, vestito scuro. Mi ricordo come se fosse oggi, una volta che eravamo appostati, ho visto uno della squadra nemica e non potevo avvicinarmi, perché se mi avvicinavo facevo rumore, perché c'erano le foglie per terra e lui mi avrebbe sentito. Allora a un certo punto eravamo vicino a una chiesa che ha iniziato a suonare le ore con la campana, don don. Allora io cosa suono? Fare? Un passo. Esatto, bravissimo. Ogni don facevo un passo e mi sono avvicinato senza che lui mi sentisse, mi ha tirato la bomba d'acqua. Allora, me lo ricordo ancora oggi benissimo quella scena. Ho esultato come un dannato. E dopo l'hanno ucciso perché si è fatto scamare. No, lui è morto, ma non c'era nessun altro. Dopo gli ha tirato un gavettone con dentro qualcos'altro. Sa, perché lui le chiama bombe d'acqua, ma le bombe d'acqua in realtà si chiamano gavettoni, insomma. Quindi... Sì, gavettoni. Sì, gavettoni, bombe d'acqua. Chiamatele come a seconda della regione italiana, penso che anche questa sia una delle tante cose che hanno. Hanno nomi diversi in varie zone d'Italia, perché per esempio almeno per come me lo ricordo io, il gavettone era quello gigante che si metteva sopra la porta, mentre il palloncino pieno d'acqua era la bomba d'acqua. No, da noi era gavettone e basta, era un termine generico. Termine generico. Finiva sempre in acqua. Sì, quando andava bene che c'era l'acqua, insomma. Esatto. Vabbè, dai. Roberto, E niente, quindi questo era sicuramente. Poi non so se adesso vogliamo già approfondire. No, no, poi facciamo a saltelloni. Sì, facciamo a saltelloni, così sentiamo pure Roberto. Vai Roberto. Allora, la cosa divertente è che, sebbene in modo fortemente diverso da quello che ho sentito da Davide e da Carlo, però comunque mi ritrovo nella descrizione che ha fatto Davide. Ed è vero probabilmente che quindi è una cosa abbastanza universale. Io sono nato nel 70 e sono cresciuto a Milano in un quartiere che all'epoca era periferico, adesso è quasi in centro perché la città è cresciuta a dismisura, ed era un quartiere particolare perché all'epoca si poteva, c'era ancora spazio, noi appunto eravamo in periferia, quindi era una specie di enorme corte con palazzi anche grossi, anche decenti, e quindi vi parlo di, non so, 250 famiglie, con al centro un grosso giardino, e quindi questo voleva dire che si erano create una serie di compagnie in base all'età. È un palazzo di nuova costruzione, quindi c'era la compagnia di quelli, non so, della prima, della seconda, della terza, e più o meno funzionava così. Poi con gli anni un pochino si sono unite le classi di età più attigue. E per me è stata veramente un'esperienza bella, perché io ho visto come, non so, uno spaccato del mondo intero in questi gruppi abbastanza ampi, quindi parliamo, non so, 10, 20, 25 persone per ognuna di queste compagnie. Abbiamo fatto di tutto ed è successo di tutto, dalle cose belle alle cose tragiche, persone che sono morte, persone che sono state arrestate. Due ce ne abbiamo, uno che è rimasto fulminato dagli acidi, cioè è successo veramente ogni tipo di cose, amori, drammi amorosi, poi tutto accadeva lì dentro, quindi voglio dire, vabbè, ma infatti scusa Roberto, meno di zero. Scusa Roberto se ti interrompo, infatti sarebbe figo una volta fa una bella puntata su quella volta che ti sei rincontrato con i compagni di scuola 30 anni dopo, che di solito è sempre un disastro. Eh sì, quella la dobbiamo fare, anch'io l'ho fatto al 40, certo. Quando abbiamo fatto 40 anni mi sono trovato con tutti i miei compagni delle elementari, figurati. Io non mi ricordo più manco che faccia hanno alcuni. No, no, allora la cosa particolare che ricordo sono anzitutto la grande fantasia, qui partiamo dalla parte poetica, poi arriviamo a quella violenta. La grande fantasia, quindi è vero quello che diceva Davide, non so, noi avevamo un grosso parcheggio dietro con due strettoie che erano i nostri campi da calcio, uno che si chiamava Maracanã e uno che si chiamava Amsterdam, non chiedetemi sì. Perché. Certo. C'erano i vari posti. Dopodiché il mio ricordo del periodo di guerra per bande, che abbiamo avuto anche noi, era però molto più violento di quello di Carlo, perché noi ricordavamo un po' i ragazzi della Via Pal. C'è stato il periodo con le cerbottane, esatto. Per fare le cerbottane, bravo, sì, pure noi. Sì, sì. Che compravamo dal tizio che vendeva l'illuminazione, con tutto il materiale che faceva sia da impugnatura che da arma, che da pallottola, poi le pistole a piombini chiaramente, con il cappuccetto con dentro il piombo, quelle ti lasciavano un bel marchio. Abbiamo anche avuto il periodo degli archi e le frecce, e non sto scherzando, infatti io credo che sia un miracolo che nessuno mai veramente rimasto ferito in maniera seria, perché alcune di queste erano armi, cioè un arco e una freccia, anche se non aveva la punta, è sempre un arco e una freccia, cioè ti prendono un occhio d'ammazza comunque. Sì, stai arrivando in un occhio prigionieri, è uno scherzo, noi acchiappavamo quelli delle altre cose, li legavamo tipo salami e poi li scambiavamo i prigionieri, cioè sono state anche cose abbastanza cruente. Di solito questo però fra noi e altri posti, facevamo i raid punitivi, andavamo a catturarli, cioè cose abbastanza cose di cui vai fiero, immagino. Anche sì, di solito i più piccoli venivano fatti prigionieri, è ovvio. E quindi sono tutti grandi ricordi, vi ripeto, anche forti, perché erano cose che, emozionanti comunque, la guerra, noi facevamo una pseudo guerra vera che, vi ripeto, solo per caso non ha avuto grosse conseguenze, però questo microcosmo in cui io sono cresciuto è una cosa che mi piace, mi ritengo che mi abbia formato. Un'ultima cosa, c'erano gente di tutte le estrazioni e di tutte, come posso dire, veramente dal povero al ricco, e c'erano tutti, all'epoca non c'era nessun tipo di differenziazione, per cui anche questo era veramente uno spaccato di un microcosmo, mi piace pensare, con dentro tutto, dove è successo tutto. E quindi questo è il mio ricordo della cosa, e l'immaginazione la faceva da padrona, certo. Io vorrei a questo punto, poi passo ritorniamo da Davide, no? Che magari ha dato lo spunto. Partirei però dal tipo di giochi, quindi con l'immaginazione che facevate da soli, e poi ritorniamo un attimo anche a quelli dei gruppi, perché io per esempio mi viene in mente una cosa che facevo sempre con le fish che si usavano per giocare a carte, no? E c'erano queste fish dove erano delle fish di plastica che erano tutte quante della stessa dimensione, solo che erano colorate, quindi c'erano gialle, verdi, blu e rosse. Io le verdi le mettevo da parte e le gialle, le blu e le rosse le usavo e fingevo che erano i personaggi di Star Trek, per esempio, che combattevano contro quelli verdi che erano, che ne so, i Romulani, per esempio, no? E questa è una roba, cioè nel senso, del tipo, tu dici i videogiochi, no? Tu dici, vabbè, ma che ci vedevi in quel videogioco? La stessa cosa che ci vedi in una fish, cioè il principio è lo stesso, è lo stesso principio di Pong, perché è una cosa rettangolare che sta lì e tu dai a quella cosa una proprietà di fantasia, poi alla fine, no? E quindi, ecco, una delle cose che io mi ricordo era questa qua. Questa è una delle cose. E un'altra cosa che facevo, che poi. Uno intanto saluto Piergin in chat, che non l'avevamo salutato prima, poi ha scritto una cosa, dopo magari la leggiamo. Un'altra cosa che facevo, per esempio, con il biliardo. Noi avevamo il biliardo a casa mia in campagna. Quando ero ragazzino io prendevo le palle del biliardo, che erano tutti atleti che facevano il mezzo fondo, tipo i 5000 metri, no? Che giravano tutto, le facevo correre tutte intorno al biliardo. Poi praticamente quelli che cascavano nella buca erano quelli che venivano eliminate. E alla fine quelle che arrivavano, insomma, dopo 3-4 giri, quella che arrivava vinceva medaglia d'oro, medaglia d'argento, per me erano gli atleti che correvano le maratone, capito? Cioè, nel senso, ma tu dici, vabbè, ma là sei un po' un bambino autistico. No. In realtà quando sei da solo tante volte, ed un'altra cosa che facevo, qui poi chiudo e passo a... Poi magari me ne verranno in mente altri decini, 10 migliaia, no? Ed è forse il motivo per cui tante volte mi piace anche fare i podcast, che io avevo questo registratore su a casa mia in campagna, non so neanche di chi era, se era quelle classiche radio con registratore, col microfonino di lato, e praticamente io con le cassette mi immaginavo le storie, raccontavo le storie, facevo i sceneggiati audio praticamente, no? Facevo pure gli effetti sonori, no? E sarebbero belle da recuperare. Sarebbe figo. Chissà se esistono. Guarda, la prossima esistono, volta abbastanza... io te le posso trasformare in digitale. In digitale, sì. Infatti sarebbe figo. Perché io praticamente raccontavo queste storie, no? E poi si scazzottavano. Capito? Cioè, col microfono veniva tutto col pollice, no? Veniva tutto un suono che sembrava che si scazzottavano. E ecco, queste erano le cose che facevo io prima di essere ricoverato. Ma no, io penso che tutti noi, ognuno nella sua intimità, anche perché devo dire che quando eravamo ragazzini la fantasia era a livelli ovviamente molto più ampi, e bastava veramente una cosa che assomigliasse a una cosa e ci costruivi subito sopra un pensiero, un'avventura, un ragionamento. C'è da dire che io ho sempre avuto molti giocattoli, quindi quando ero da solo qualcosa da fare ce l'avevo sempre, che sia anche solo il trenino, la pista, il suonare l'organo, che era una di quelle cose che facevo spesso quando ero da solo. Però se devo dire la verità, a differenza di Carlo, la tendenza a stare a casa da soli era veramente molto, cioè proprio rarissimo, era difficilissimo. Io appena mettevo piede a casa mangiavo, adesso non ricordo bene le tempistiche, ovviamente quando parlava di inverno e estate effettivamente c'è da dire che d'inverno non si usciva, si usciva poco frequentemente, ma io abitavo in un grosso condominio, di non so quante famiglie, è di 14 piani con almeno 4 famiglie per piano, con 6 scale, quindi altissime famiglie, e io col mio vicino di casa e i miei vicini di casa le porte erano aperte, ragazzi, proprio aperte, cioè i vicini di casa abitavano a casa mia, io abitavo a casa sua, sì. Lui a casa di fianco, sì, sì, sì. Anche da me. Sì, in certe realtà era così, sì, è vero. cioè mi trovavo, cioè non c'era bisogno che il mio amico del vicino di casa suonasse, che ne so, entrava, lo trovavo in casa. E d'estate, che non c'erano condizionatori, niente, avevamo tutte le porte aperte, proprio sia la porta di casa proprio aperte, spalancate, e niente, si girava, fu come se fosse un unico grosso appartamento con dentro tutti, e la signora di fianco veniva a parlare con mia mamma, si chiacchieravano, era una molto, molto, molto più comunitaria, no? Per cui sai, era difficile anche d'inverno rimanere soli in casa, abbandonati, c'era sempre il tuo vicino di casa quantomeno, e poi vabbè, io avevo i vicini di piano, cioè quello che prendeva l'ascensore dal quarto veniva al secondo, o dal sesto veniva al secondo, che era come se fossimo vicini di casa tutti, no? Beh, sì, ma cioè, l'approccio era proprio diverso. Io mi ricordo pure nel condominio mio a Roma, che nonostante, cioè, se parliamo di un condominio mio a Roma, è praticamente quasi tutta la via qua de Monterotondo, dove abito adesso, perché era un condominio gigantesco, di quelli, boh, sono state 300-400 famiglie dentro, quindi era grosso, cioè, nonostante c'era comunque il cortile sotto, il parco, roba del genere, e lì comunque tra quelli nella tromba, praticamente quelli nella scala, quindi della scala specifica, alla fine si conosceva tutti, una sorta di piccola comunità, no? E quindi, esatto. Cioè, Pier G dice che lui aveva degli amici anche pericolosi, perché uno di loro aveva una pistola a taglia compressa e ci infilava dentro un chiodo. Aia. E mini cicciolo. Sì, Raud, acceso. Sono quelli che ok. Il mini cicciolo e Raud, in pratica. Okay. Il mio amico aveva una pistola vera e ha sparato uno, se per questo, no? Eccolo. Il Bronx. Beh, non cominciamo a toccare il discorso Raudi, micette, roba che abbiamo fatto di quella. No, no, sì, sì, no, infatti anche io. Vero, anche io l'unica che racconto sempre è quella del fischiabotto entrato dalla finestra, che vabbè, l'ho raccontata in tantissimi altri podcast. Vabbè, in generale, però provate, insomma, la mille esplosiva, se volete fare uno scherzo orripilante. No, meglio non raccontarlo. Vabbè. Beh, ma tanto ormai è roba in prescrizione. Beh, io guarda, ma magari dai l'input. Vabbè, non è che fortunatamente non ci ascoltano dei ragazzini piccoli, questo diciamo è l'unico vantaggio. No, che poi non possiamo farla sentire. Se quando dici, ah, bello, è interessante questo episodio, però non ho potuto farlo sentire a mia figlia perché parlate dopo la cosa della Barbie, fai la mela esplosiva, cioè è impossibile pulire il posto dove esplode la mela esplosiva, ci vorranno decenni per togliere i pezzi di mela da ovunque. Che un po' tipo i pezzi di cranio, praticamente. No, io mi ricordo, ecco, un amico mio, per esempio, facevamo sulla parete o sul per terra, praticamente con l'alcol, quello infiammabile. Disegniamo dei grossi piselli e gli davamo fuoco. Ci stiamo già giocando l'episodio. E gli davamo fuoco. Cippa di fuoco, esatto. Oppure una volta abbiamo preso, cioè, avete presente le micette, no? Che le micette erano stupidelle, no? Cioè, quelle tu accendevi la micetta, poi lo tiravi, pim, facevano. Praticamente abbiamo preso la carta igienica, ci abbiamo messo tutto alcol, poi abbiamo tutte micette, poi ancora carta igienica, ancora alcol, ancora micette, ancora, cioè, era venuta fuori una pallocca così. L'abbiamo accesa e l'abbiamo buttata sotto, ma tanto abbiamo detto, ma tanto non scoppierà mai, no? Boh. Dopo un quarto d'ora, perché noi alla fine vedevamo che si spegneva piano piano, e avevamo, vabbè, che cazzata, siamo rientrati, quindi abbiamo chiuso la finestra, ma certo si è detto, si vedeva tutto sto fumo che arriva da sotto. Comunque ragazzi, io ai miei tempi c'erano i Raudi, c'erano delle cose, dei comunque bei si dice Raudi, però, Raudi, no Raudi, sì. Da noi erano i Raudi. Ah, ok. Vabbè, comunque adesso invece sento delle volte di quelle bombe, ragazzi, non so che cosa c'è adesso. Ma sento quelle esplosioni, non approfondire. No, io avevo le micette per fargli fare più rumore, con mio fratello prendevamo i tubi, quelli di plastica, sei tubi che vengono usati per fare le grondaie, lo scarico delle grondaie, sì. I tubi, se tu prendevi le micette e le mettevi lì dentro sembrava un bazooka. È vero. No, ma è venuto a mettere un'altra cosa, ragazzi, ma non va a raccontare un privato. È meglio comunque, ecco, i giochi da soli per esempio l'ultima cosa, hai già raccontato delle cippe di fuoco, quindi che ci no no, è peggio, è peggio, sicuro che è peggio, è peggio, perché oltre a quello che ho fatto c'è anche la dissimulazione, capito, cioè, c'è anche... tipo oddio che è successo, chi è stato, capito? Ma chi è stato, cos'è, chi è sto stronzo? Che gente che c'è in giro, porca miseria. Vabbè, comunque le cippe di fuoco, non lo so io chi... Comunque, cioè, io per esempio una cosa che facevo quando giocavo anche con i giocattoli da solo, immaginavo la storia, facevo tutto la storia, poi a un certo punto facevo i titoli di coda. No, del film. Ah, no, quei titoli di coda no. I titoli di coda erano praticamente le dita che scorrevano davanti alla faccia e salivano verso l'alto, e quelli erano i titoli di coda, capito? Cioè, vabbè, ragazzi, ognuno c'ha i suoi. E tu eri già regista dentro. Sì, sì, già... ma io l'ho raccontato, io questa cosa di fare le registrazioni audio, di fare le riprese con la pellicola, ce l'ho sempre avuto da ragazzino, quindi... Comunque, vabbè, io, effettivamente nel documento io ho tenuto un tono allegro, ricordi semplici, no? Però ho dimenticato di mettere tutte le cose brutte, perché se mette le cose brutte l'elenco diventava anche più lungo. Di quello delle, secondo me, le cose brutte meritano un episodio specifico, cioè quelle gli scherzi brutti che si facevano negli anni 70. Anche, cioè, il titolo sarà come siamo, come è possibile che siamo ancora vivi. Esatto, come siamo sopravvissuti a noi stessi. Ma c'è anche una parte drammatica, perché noi adesso giustamente chiaramente ci ricordiamo l'allegria, però penso che per tutti, comunque, in queste grandi comunità in cui siamo cresciuti sono successe anche cose. Vabbè, tragiche, tristi, sì, per carità. Purtroppo, voglio dire, io ho avuto un compagno di classe che è morto in motocicletta. Ho capito, cioè... vabbè, adesso Delenda Cartago, va bene, ok. Podcast di Tocaiolo, perché anche la parte drammatica, anche la parte drammatica. Certo, certo. No, diciamo che non c'entra molto con l'immaginazione. Poi è vero che comunque ognuno di noi nella nostra generazione comunque ci ha avuto almeno una situazione drammatica, perché purtroppo potevano, cioè, c'era meno accortezza, c'erano tante cose, insomma, quindi poi alla fine era proprio diverso come modo di affrontare le cose, e quindi capitava ogni tanto che c'era pure in classe che succedeva che magari c'era il racconto drammatico, la situazione particolare, però non perché non voglio affrontarla in questa, però qui giustamente siamo parlati di come approcciamo noi con l'immaginazione i giochi che facevamo, no? Quindi questo è un po'. Okay. E... voi andate, torno subito. Sì, comunque, come si diceva prima, no? Che cosa facevamo o cosa immaginavamo quando eravamo da soli? Vabbè, dicevo, a volte bastava il giusto scatolone in casa, o la scatola piuttosto che un disegno, una roba che già ti veniva, ti spartiva l'immaginazione, no? Però onestamente, per quanto mi ricordo io, da quando ero piccolo, ma credo anche voi, quando eravamo a casa da soli difficilmente non avevamo qualcosa con quale giocare, fossero stati Lego al limite, sì, come ultima risorsa, ma che per me forse era la prima, però la famosa gru, ma piuttosto che se avevi uno strumento musicale suonavi, se cominciavi a essere in due in casa, i giochi, non è che si poteva giocare a 5.000 giochi in casa, però si tendeva a cercare di giocare in maniera pratica con qualcosa, no? Mentre invece era più facile quando invece si andava giù in giardino, in cortile o dove si andava, che si usciva con zero, neanche una lira in tasca, niente in tasca, neanche le chiavi, cioè proprio a vuoti totali, e ci si ritrovava e bisognava trovare qualcosa da fare, e lì partiva davvero l'immaginazione, perché nessuno si portava, sì, al massimo qualcuno tra tutti noi portava un pallone, a parte che il pallone ormai abitava giù in cortile di vita propria. Tu arrivavi in cortile e il pallone era lì in giro da qualche parte, no? Sì. E ci giocavi e ce n'era più di uno, piuttosto ce n'erano magari due o tre infilati su un albero, sì, uno sul tetto da qualche parte, uno che tu li vedevi, dicevi, i nostri palloni. Voi avevate il portinaio, due di portinaio, sì, perché il nostro palazzo sequestrava i palloni. Sì, sì, quindi sì, noi dovevamo avere la buco il pallone. Esatto, la vegetta che individuava il portinaio in avvicinamento, sennò ci avrebbe sequestrato il pallone. Sì, sì, assolutamente, ma addirittura al mare da me invece c'era proprio la zona, si chiamava il cimitero dei palloni, che era praticamente una sorta di gigantesca aiuola fatta con quelle piante quelle grasse fatte con i punti, con le punte, quelle insomma, che ti ammazzano se cerchi di entrare. Sì, esatto, bravo, e te fanno, e c'è praticamente tutti questi palloni appiccati su ste piante bucati, sgonfiati, quindi insomma tanto. Il tango bastava la spina di una foglia per bucarlo. Sì, quindi. Il tango tanto più quell'altri, il tango, no, il super tele, il super santos, super tele, super, sì, il tango, sì, pure se il tango se bucava, però già il tango era un bel pallone, cioè nel senso, io ho detto tango ma pensavo al super tele, okay. bastava guardarlo storto, che c'era chiaramente quando macchina, passava la macchina, esatto, bravo, ah, beh, sì, esatto. Io poi sono stato fornitore ufficiale di super tele agli amici per almeno 5 anni, perché questa non l'ho mai raccontata. Mio padre un giorno in autostrada stava andando in macchina e a un certo punto, sai quei camion che perdono il carico, che capita ogni tanto, sì, sì, sì. Si è aperto, ha perso una confezione da negozio di super tele. Quindi tipo erano credo 12 o 16 palloni confezionati nel cellophane. È tornato a casa e mi fa: guarda cosa ho trovato in autostrada che è volato fuori da un camion. Io era basta, siamo diventati fornitori ufficiali, io e mio fratello, di palloni per tutto il vicinato. Io ricordo il cortile, il pallone quello morto di pelle, che ormai non ce la faceva più, voleva morire da solo quel pallone, non era più un pallone, però sì, alla fine in emergenza si giocava anche con quello. Quando io mi ricordo, mio padre c'era uno di quelli vecchi di cuoio, quelli arancioni, quelli che si usavano, e sì, infatti non voleva che io ci giocassi, però cioè, ovviamente la tentazione, e pure quello è finito nel cimitero dei palloni, dei palloni. Anche quello. Noi come cimitero avevamo di fianco al nostro, noi avevamo un cortile interno privato con una siepe, e poi fuori dalla siepe c'era una specie di giardinetto, di fronte c'era una piccola ditta, chiamiamola così, era una ditta che faceva caramelle abbastanza famosa, lo è ancora, non moltissimo, però all'epoca era famosissima, faceva le caramelle Lorena, per chi se lo ricorda o le conosce comunque, ed era uno che abitava nel nostro palazzo, aveva questa piccola aziendina che aveva quel tetto piatto bassino, quello dove finivano i palloni, dove era pieno di palloni, di frisbee, di robe, e non c'era modo di andare là sopra, non c'era, sì, proprio, sì, nessun modo, anche chiedendo al tizio, ma non si può andare sul tetto, questo brontolava, niente, i nostri palloni li guardavamo, cazzo sono lì, porca miseria, non riuscivamo mai a prenderli, ma non erano morti, erano buoni. Però non riuscivo. C'era un mio amico parlando di questa cosa, più le tragedie che ha detto prima il buon Roberto, si chiama Roberto Tomaiuolo Telenda Cartago, è vero, si chiama Tomaiuolo. Comunque succedeva che a volte ci si poteva andare sopra questi tetti, e succedeva anche che a volte, visto che questi tetti erano piatti, ci si giocava a pallone sopra questi tetti. Esatto. Peccato che non è che c'era molto, diciamo, protezione al di fuori di questi tetti. Zero. Quindi c'è un nostro amico che ha preso il soprannome di Willy. Willy da Willy il Coyote. È ancora vivo, vivo, vedo figli, moglie, tutto quanto, quindi è sopravvissuto. Ma ha preso questo soprannome di Willy Coyote per una partita di calcio sopra un tetto di un'azienda di questo tipo, dove mentre giocavamo, a un certo punto lui non si è accorto che finiva il tetto. Quindi praticamente è volato, andato giù, ha fatto un volo di 3-4 metri, ma a parte rompersi qualcosa non ha avuto altre conseguenze, diciamo. Però quel giorno abbiamo chiamato Willy Coyote perché ha fatto come Willy Coyote, anche Willy Coglione, però Willy Coyote che corre, esce fuori dal burrone e poi sta in aria quei 2-3 secondi, esatto, prima di accorgersi che sotto non c'è più niente. A Roma però l'avrebbero chiamato Willy Coglione, non avrebbe... vabbè. Ma comunque, un'altra cosa che sono curioso, ma ai nostri tempi molti avevano un soprannome, non so se è una cosa che dura ancora oggi oppure no, questa è... Sì, secondo oggi sicuramente non lo so, però sicuramente ai miei tempi anch'io c'erano soprannomi, ma siccome io ero molto grosso, se andava bene ero gattone, se andava bene per gli amici, però in linea generale quando si tendeva un pochino anche a voler offendere, io ero sempre molti epitati, torrente di merda, torrente di lasso, madonna, no, cioè, ma perché? Anche di grasso. Ma perché? Scusa, perché questa malvagità? Scusa, perché? No, io invece, siccome può sembrare strano, ma ero piccolino e magro e mi chiamavano Carletto, quindi io ero Carletto, il Carletto piccolino. Beh, poi è diventato Carletto principe dei mostri e Carletto l'ha fatta nel letto, questo ce l'ha avuto per anni come no, io soprannomi no, non si usava, cioè in generale da noi il se... secco e il magro, sì, e sì, sì, quello sì, però te devo dire la verità, non c'ho memoria di questa cosa. Sì, si usavano i soprannomi, in effetti c'è ragione, voi capirai, da noi la Roma poi infatti, no, sì, ci penso in effetti sì, però te devo dire non c'ho memoria de... Allora, io l'unica cosa che ricordo erano quasi sempre delle abbreviazioni di cognomi, non ci chiamavamo quasi mai per nome. Se uno si chiamava Franceschetti era France, se si chiamava sì, vabbè, quello alle scuole, alle superiori ero Santa. Sì, cioè, però alle superiori no? Santa, Santa amici, pure per noi, perché molti degli amici, quasi l'80% facilmente erano compagni di classe, Sì, però io alle elementari, alle medie mi chiamavano per nome e alle superiori che ho iniziato a chiamarci per cognome. Comunque, tornando all'immaginazione, noi parlavamo di palloni reali, quando poi alla fine eravamo outdoor, ma se eravamo indoor, per esempio, non so quanti di voi prendevano i fogli di protocollo, li accartocciavano e li cosavano con lo scotch e facevi la palla e ci giocavi a pallone dentro casa. Ma questo lo fa mio figlio ancora oggi. Cioè, ma non è a, che scuola, a scuola, all'interno della scuola e ricreazione si faceva sempre, mamma mia, la palla. Cioè, no, il corridoio il corridoio della scuola mia, c'erano i mondiali proprio. Esatto. Con le bidelle, sì, che bestemmiavano. Non nascondere le risme di carta in ufficio, perché se no arriva mio figlio e si appallottola la carta nuova. Nuova, ovviamente, mica va a prendere quella usata, no, mi appallottola i fogli di carta della stampante, li tira fuori dalla stampante. E allora ci... ti dico io un aneddoto, tanto è vera questa cosa che alcuni di voi sanno che ho fatto l'accademia, esiste un giorno in cui praticamente quasi l'accademia militare esplicita militare. Perché magari chi lo sa pensa che deve andare l'accademia d'arte, sì. E praticamente esiste un giorno ogni corso che si può fare più o meno quello che si vuole, e noi abbiamo organizzato una partita di calcio all'interno del circolo ufficiale dell'Accademia Aeronautica, che è quasi come, non so come dire, come dentro la San Pietro, per dire, perché non si può nemmeno entrare senza, non so, giacca e cravatta solitamente. Io per posto molto in funzione di questa cosa dissacrante della partita di pallone, abbiamo smontato tutto, messo le strisce per terra con l'asse adesivo, le porte, vestiti da calciatori, credo che sia una cosa che poi passò alla storia ed fu davvero divertente. Ma quelli era professionismo, ragazzi. Erano più vecchi, però il ricordo, provo a dire, era quello lì, cioè di quando veramente noi giocavamo a pallone ovunque. Ed è questo che ci è piaciuto rifare qualche anno fa. Sì, pallone è effettivamente la cosa più facile, sì, ovunque tu sia, cioè se cammini in mezzo alla strada c'è un ragazzino, due ragazzini con un pallone, ti arriva il pallone sul piede, è facile che cominci a infilarti dentro e fare la partitina volante, due tiri volanti, sì, e poi te ne vai. Sì, sì. Comunque Pier Gigi scrive che lui in settimana giocava sempre da solo, si sfogava la domenica quando andava dai nonni e ci giocava con i cugini, che ce ne aveva 11 più o meno, tutti quanti della stessa età. I nonni abitavano in campagna, quindi nascondino, bandierina, rialzo. Aspettate che mo voglio rifaccio, perché nascondino ok, bandierina potrei aver capito di che si tratta, rialzo sì, non mi è molto chiaro, sì, e ci lanciavamo dal fienile, si lanciavano nei mucchi di fieno, gli bastava tutta la settimana. Sì, questo lo facevo anch'io, sì, buttavo nei mucchi di fieno, che poi rialzo credo che sia un gioco dove bisogna, cioè si parte tutti a pian terreno e bisogna a riuscire ad andare su un posto rialzato, e quello che va in giro, se non ti becca su un posto rialzato a sufficienza, esatto, è quella, sì, il rialzo, esatto, okay. Devi salire rispetto al terreno. Bandierina, suppongo che sia rubabandiera, ma fondamentalmente sì, penso che sia rubabandiera, penso. Tu, Davide, hai la versione custom di Ruba Bandiera. Sì, noi avevamo, almeno in parte che lo chiamavamo Bandiera e basta, poi in effetti ufficialmente sarebbe Ruba Bandiera. E poi avevamo un gioco invece che si chiamava Bandera. Banderas. Non so da dove arrivasse questo nome, che per me è sempre stato un gioco standard, normale, tranquillo, cioè tutti per me giocavano a sto gioco, no? Poi invece ho scoperto che nessuno sa che esista, nessuno sa che esiste sto gioco, che gioco è, ed era anche abbastanza articolato ed era molto bello, ripensandolo adesso e rimmaginandomelo, era veramente un gioco completo che poi era fondamentalmente quasi un mix tra diversi giochi, se vogliamo, no? Che uno dei giochi era, cioè, la base era una sorta di forse ce l'hai o qualcosa del, no, ma neanche ce l'hai, una sorta di palla prigioniera senza palla, dove si giocava in due squadre, dove eravamo, non so, quattro per squadra, e ognuno sul lato opposto di un campo di gioco, che nel nostro caso era il nostro cortile, che erano due alberi, che era la tana dove noi stavamo attaccati al nostro albero, e fin tanto che eravamo attaccati ai nostri alberi eravamo invincibili, no? Ma lo scopo del gioco era prendere gli altri, e gli altri li potevi prendere solo quando non erano attaccati al loro albero. Quattro cantoni, questo. E assomiglia a quello lì, adesso io non lo so, forse è proprio i quattro cantoni alla fine, infatti io lo volevo dire per vedere se qualcuno si ritrova in questo gioco, per capire se poi alla fine è che gioco è. Poi vabbè, il gioco di la verità mai sentito proprio. E comunque adesso il gioco, la dinamica è ancora più complessa, nel senso, si partiva, uno usciva dalla tana, si cominciava a sfidare gli altri, partiva un altro dall'altra parte, si rincorrevano un po', se per caso uno dei due prendeva l'altro, chi esce per primo è quello che aveva diritto di prendere. Quando riusciva a prendere qualcuno, quel qualcuno come prigioniero te lo portavi nel tuo lato, opposto a quello dove era la tana, e attendeva di essere liberato da qualcuno dell'altra fazione, che partiva nel tentativo di liberare quelli presi, e se ce la faceva a riuscire a schivare i colpi degli altri e andarlo a liberare, si liberava e si ricominciava. Se invece durante il tentativo di liberazione veniva a sua volta toccato, veniva preso, e diventavano due presi che si attaccavano uno all'altro e si avvicinavano con la mano verso il suo settore di gioco, in modo da semplificare di essere liberati, e di andare, si andava avanti così finché o li prendevi tutti, oppure esisteva la combo magica: se tu riuscivi a toccare l'albero dell'altra fazione, vincevi la partita, cioè senza che ti toccassero gli altri, ovviamente, no? Tu dovevi passare attraverso la loro barriera di quattro persone e andare a toccare il loro albero. Chiaramente funzionava quando ormai eravamo presi due di qua, tre di là, l'albero erano abbastanza, le tane erano abbastanza sguarnite, tu riuscivi a zompare sull'albero dall'altra parte e prendere. Adesso non è facile raccontarlo, bisognerebbe immaginarsi tutto il panorama di gioco, però è un gioco abbastanza elaborato che ci abbiamo giocato, ma proprio sempre, tutti i giorni, cioè abbiamo giocato tantissimo a questi giochi, e noi quando eravamo piccoli non giocavamo a questo gioco, giocavamo ad altri e vedevamo i grandi che giocavano a questo gioco, questo era il gioco da grandi, e l'avevamo imparato. Definisci grandi, però grandi secondo me 15, 16, 17 anni, noi eravamo dei pistolini, 8, 9 anni, li vedevamo, e poi arrivava il giorno che ti chiamava, perché gli mancava la gente, chiamavano il più furbo dei piccoli, insomma quello che sembrava il migliore, e ti facevano giocare, tu, cacchio, lì che gioca con i grandi, aspetta, aiuto. E allora e lì ti sentivi, ma ho giocato a Bandera con i grandi, allora sto crescendo grande anch'io. E poi dopo partivi, si cominciava, entravi, diventavi grande anche tu e giocavi a questi giochi. Insomma, erano giochi che andavano anche lì a classi di età, chiaramente, che i bambini piccoli giocavano a biglie, a giochini, insomma, un po' più semplici. Noi avevamo il giardino poi suddiviso in due aree, no? Bambine, bambini. Perché avevamo tutte le bambine da un lato che giocavano con la corda, giocavano con le bambole, c'erano delle panchine, ognuna si sedevano con lì. Le Barbie, giocavano con le Barbie. Esatto, no, ci giocavamo noi con le Barbie. Esatto. Noi invece i ragazzini erano seduti sulla ringhiera e non sulla panchina. La panchina era per le ragazze, noi sulle ringhiere facevamo i fighi dall'altra parte. Però anche i giochi mix tra ragazzi e ragazze quando ero piccolo, tipo Strega Comanda Color, era ragazzi e ragazzi insieme. Sì, cioè, erano tanti giochi misti, c'era anche Girotondo quando eravamo molto piccoli, era misto, piuttosto che Boom Boom Mago Libero. Però io ho una domanda, perché noi qui stiamo parlando di giochi con delle regole predefinite, no? Ok, quindi, però quali sono quei giochi anche in comitiva, in gruppo che facevate, che erano inventati di sana pianta? Tipo io per esempio mi ricordo alle elementari, nell'ora che si stava fuori praticamente, c'era una parte di un cancello posteriore della scuola, che c'aveva questa specie di ingresso e col cancello chiuso, che però questo ingresso alla fine creava una zona quadrata, no? E io prendevo tipo un po' di amichette e facevamo che quella era la nostra astronave, no? E che venivamo attaccati dagli alieni, e quindi quando dicevano ci colpiscono, tutti questi buttavamo per terra. No, io devo dire che noi, a parte Bandera, che era un gioco che mi sembrava per me normale, poi ho scoperto essere una roba forse di nostra invenzione, un gioco preso di base da qualche altro gioco e poi un po' modificato, non lo so, probabilmente alcuni giochi nascono in un modo e poi diventano qualcos'altro, perché comunque nel luogo dove sei ci sono degli alberi disposti in un modo diverso rispetto a quello che servirebbe, allora il gioco cambia aspetto e cambia forma solo perché non hai lo spazio giusto per fare quello che regolamentare, e allora ti inventi un'alternativa per adattarsi all'ambiente, no? Se no, comunque, giochi fuori standard me ne ricordo veramente pochi, se non per esempio tipo Giochi Senza Frontiere, che non è un gioco che esiste standard, ma era semplicemente un'organizzazione. Praticamente poi in particolare nel nostro cortile c'erano due ragazzi, fratelli, specializzati proprio, cioè questi erano proprio uno, arrivavano in cortile con il tabellone, con i paesi, cioè lo dicevano già il giorno prima, no? Domani Giochi Senza Frontiere, mi raccomando, tutti presenti, si facevano le squadre, c'era l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna. Vabbè, certo, questo è quando eri abituato pure che magari conoscevi qualche animatore che ti aveva insegnato. Esatto, e loro venivano giù col cartellone con l'elenco dei giochi che si inventavano loro in realtà, portando, se c'era bisogno, dell'attrezzatura proprio però basilare, che fosse stata una corda per saltare, un cerchio, una cavolata, che serviva poi per fare i vari giochi, bicchieri di carta, che cacchio, cavolate. E poi niente, partivano. Oggi facciamo il gioco, dobbiamo trasportare dell'acqua da qui a là con dei bicchieri, dobbiamo riuscire a trasportare più acqua possibile riempiendo questo secchio. E, ma cavolate, giochi così, no? Che però organizzati bene, questi qua, quando venivano... Ma questo comunque lo facevo pure io, l'avevo raccontato l'altra volta, no? Che mettevo lo stereo con gli inni nazionali di The Summer Games per Commodore 64, ce lo facevo lì. No? Lì eravamo un po' più indietro nel tempo, il Commodore 64 non c'era, era proprio con strumenti basilari, al massimo c'era una penna, qualche tavanata che si trovava lì in giardino, e ci si arrangiava davvero con quello che c'era, senza tante cose, non avevamo niente, proprio davvero poca roba in cortile. Poi tra l'altro, più che palloni, qualche corda, qualche biglia, qualche cavolata, non c'era mai niente, non c'era nessuno che aveva molto di più. L'alternativa era la bicicletta, andavi in giro in bicicletta sempre intorno nel cortile, tra l'altro. Io con la bicicletta giravo tutto il paese invece. No, io devo dire che c'è una cosa che non ho detto prima, cioè quando tu hai parlato, sia tu che Simone che Roberto, voi avete vissuto in condomini. Sì, praticamente in città. Sì. Io invece vivevo in campagna. Vivevo una casa in mezzo praticamente avevo i campi dietro casa, la fattoria de Macazzola, con le mucche, i maiali, le galline, eccetera. E mio padre aveva i capannoni del fabbro, quindi metalmeccanica, eccetera. Quindi eravamo delle case, diciamo, sparse, però c'era lo stesso concetto che avete detto prima, cioè in realtà queste case erano aperte, anche se erano case che non erano attaccate una all'altra, ognuno aveva il giardino, cioè i miei vicini erano le case che c'avevo dietro, ma per arrivarci dovevo attraversare praticamente i due giardini, la strada, eccetera. Ma io andavo senza chiedere ai miei genitori dove sei, cosa stai facendo, prendevo, andavo dai Macazzola che stavano dietro di me, e dove con loro mi incontravo, e poi andavamo tutti a Ri, che non so se si diceva anche da voi Ri, che era praticamente il fiumiciattolo. Il Ri era una specie di... Io non avevo fiumiciattoli. È una specie di piccolo torrente in cui c'erano le rane, per esempio, e cacciavamo i girini. I girini, è vero. I girini li mettevamo nei secchi, poi diventavano rane, insomma. Quindi lì c'avevo le sabbie mobili, ce l'avevi tu? No, le sabbie mobili. Ora vi dico una cosa che voi... C'erano nel Parco Lambro, che non è... che è stato tante cose per Milano... Mm-hmm. E che nasce, per chi non lo sapesse, come deposito di macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ah. Metà Milano è così, eh. La montagnetta di San Siro è nata accumulando i detriti dei palazzi distrutti, insomma, della Seconda Guerra Mondiale. Comunque c'erano, adesso credo che praticamente non esista più, alcune zone che erano delle vere e proprie sabbie mobili dove tu andavi e affondavi. E quindi c'era anche la prova di coraggio di attraversare questo poco rischioso, eh? Sì, era più rischioso per altri motivi, per la verità, però i topi giganti che ci giravano, ma credo anche un po' la malavita, penso. La malavita, allora, all'epoca c'era un grosso problema di droga. Esatto. Eroina e cose del genere, per cui non erano invece adesso sto problema non ci sta più. No, anche ai miei tempi, nella mia zona, poi abitavo in periferia, Milano, Cinisello, Balsamo, non era il fiore della periferia. Il problema droga c'era, però la droga inteso eroina fondamentalmente, sì, c'è ancora, certo, ma non... Adesso è molto meno, ci sono altre droghe, diciamo, però all'epoca era molto più frequente, appunto, chi si bucava, l'eroina, eccetera, le siringhe in giro, che come funghi. Adesso non si vedono quasi più, ci sono altri tipi di droghe. Noi quando andavamo ai giardinetti era una cosa abbastanza comune, cioè le siringhe. Infatti questa è una cosa che abbiamo detto già in altre occasioni, cioè noi vediamo a volte tanti giovani genitori oggi super ossessionati, che magari non fanno uscire i bambini perché dicono che non è sicuro, ma cioè rispetto a quanto era sicuro 40-30 anni fa, cioè, ragazzi, noi giocavamo con i siringoni per terra, cioè, quindi... Esatto. Ti devo dire che io da questo punto noi eravamo in 20, quindi era improbabile che qualcuno ci attaccasse, ma è successo. Andammo a una partita di calcetto, c'è un tizio che venne fuori con un coltello e fa: io sono appena uscito di prigione, non me ne frega niente, e l'abbiamo ricoperto di mazzate per la cronaca, ecco. Però bene, no, io invece stavo dicendo, da questo punto di vista ero abbastanza fortunato, che vivendo in paese, in un paese in campagna, non sapevo che c'era la droga, le cose eccetera, ma non li ho mai vissute da vicino, non c'erano il paese era, diciamo, piccolo e ci si conosceva tutti, era un po' una cosa. Poi dopo, vabbè, quando andavi al mare eccetera, c'erano queste cose, lo sapevi, e quindi vabbè, si vedevano un po' di più. Cosa, esatto. Beh, sicuramente avevi, a differenza nostra, molto più verde, perché noi c'era, certo. Il verde nostro era proprio delle piccole fettine, parchettini. Tu avrai avuto chilometri di verde e avevi... Io avevo il bosco e soprattutto i campi coltivati, che era un divertimento eccezionale. Quando tu facevano crescere le pannocchie di mais, sì, quelle alte, no? E era divertente perché tu praticamente potevi infilarti dentro, sparivi e nessuno sapeva più dove eri, no? E si entrava in 3 o 4, si correva e nessuno sapeva. Poi a un certo punto ti perdevi l'orientamento, allora iniziavi a correre dritto, poi saltavi fuori e non sapevi da che parte, non eri più dalla parte dove eri entrato, ma eri da un'altra parte. Sì, sì. Poi penso che ci possa essere anche del panico. Io mi ricordo che io sono capitato quando andavo dai miei parenti a Parma, che avevano i campi, solo che io, siccome sono un po' fifone con gli insetti, quando quindi ragni, bestie di qualsiasi genere, vado in pappa. Invece noi eravamo abituati. Se tu entri in uno di quegli affari lì, io andavo con attacchi di panico, perché lì dentro ti eri riassalito da tutte le bestie possibili. Avevamo le cavallette giganti, hai presente le cavallette, quelle di 5 centimetri? Io mi ricordo quando era venuta una mia cugina di città, che abbiamo fatto vedere una di quelle cavallette, ci mancava poco che sveniva lì di colpo, così pam pum, e per mai terra, più tipo venire lì a trovarvi. Beh, io la regalai una con quelle cavallette, cioè, adesso che mi fai sbloccare un ricordo, come si dice oggi, io regalai una cavalletta a una ragazza che mi piaceva quando avevo 4 o 5 anni. È proprio la cosa giusta, è la cosa perfetta. se vuoi che te la dia, è la cosa giusta. Comunque, non so se riguardo ai giochi invece che si facevano da soli, nel senso, come hai detto prima, anch'io, come ha detto prima Davide, era difficile perché anch'io ero pieno di giocattoli, in effetti, devo dire, quindi a casa comunque c'era sempre qualche giocattolo. Però mi è venuta in mente una cosa in particolare, e che riguarda sempre, se vogliamo, la mia passione dell'informatica pre avere il computer. Cioè, io non avevo ancora il computer, avevo l'Atari solo per giocare, ma mi ero già appassionato della programmazione, eccetera, leggendo su videogiochi, Basic, quelle cose lì, e avevo degli amici che avevano già il VIC-20, che gli avevano regalato, no? E... eccolo lì, Simone. Io non avevo il computer, avevo l'Atari, ma volevo fare le cose che facevano col VIC-20, e allora cosa facevo? Usavo la Olivetti di mia mamma, che era ragioniera, aveva la macchina da scrivere dell'Olivetti, quella meccanica, la lettera 22. Sì, sì, quella che abbiamo avuto tutti. Con l'inchiostro rosso e l'inchiostro nero, no? Che potevi fare i due colori, e facevo i disegni sulla carta con le lettere e i simboli della macchina da scrivere. Disegnavo le astronavi, gli omini, eccetera, facendo la pesci art, praticamente l'arte, i disegni al computer senza avere il computer, ma con la macchina da scrivere. Io ci facevo le copertine delle cassette, così delle cassette musicali, le rifinivo con tutte le O rosse e nere, facevo del design, esatto, facevamo sprite sulla carta, praticamente. E invece, appunto, anch'io ricordandomi, quando ho ricordato delle fiche, in realtà mi ricordo che raccattavo i tappi di bottiglia. Non so perché era venuta sta mania, a tutti dicevo: se trovate dei tappi, datemi. Ero riempito di tappi di bottiglia colorati, tutti i tipi, e poi li mettevo assieme e facevo dei disegni, no, con le tappi, disegnavo le bandiere, disegnavo, che ne so, la bandiera dell'Italia, la bandiera dei vari paesi, piuttosto che degli oggetti, delle cavolate. Però mi ricordo che con i tappi ci giocavo così, da solo, questo in casa, come fossero Lego, no? Quasi. Sì, un Lego finto, praticamente. Però era bello avere questi tappi, una volta erano affascinanti anche i tappi, non so se qualcuno di voi ha mai raccolto. Io ce l'ho ancora dentro al cassetto. Cosa, quindi sì, anche di tappi. Io ce l'ho ancora dentro al cassetto, perché come Fallout insegna, i tappi saranno la moneta di scambio del prossimo futuro, insomma. Ecco, questo non lo sapevo, perché non conosco il gioco. Va bene. Non so, Roberto, tu giochi da solo invece? Niente, tu giocavi solo cavallette. Perché diciamo che allora io ho cominciato a rimanere più in casa con l'avvento del computer, quindi però in generale poco. Quando giocavo da solo, giocavo con le macchinine. Esatto. E con gli amici facevamo dei circuiti in vario modo in casa e distruggevamo tutto lanciando le macchinine, ovviamente, i mobili e il resto, o con i robot, quindi i vari robottini che... Sì, ma questi erano giocattoli, li abbiamo già fatto, giocattoli. Sono proprio giochi inventati con cose che non sono giocattoli. Giochi inventati, più che altro erano una specie di giochi di ruolo, non so, giocavamo, oddio, un po' sessisti se vogliamo, nel senso che giocavamo, noi eravamo i ragazzi, eravamo i cowboy che dovevano salvare... E vabbè, è normale, le ragazze, sai, diciamo, adesso è stato fuori il gioco del dottore. Alle ragazze non interessava questo genere di gioco, ci ritenevano giustamente troppo infantili, quindi non... No, però in realtà con le, cioè io pure nella casa mia in campagna con le cuginette, alla fine, nel senso, ci avevamo queste case che in costruzione, che però erano ferme, quindi alla fine ci si poteva entrare dentro praticamente, e che ne so, se portavano delle tazzine, delle stoviglietti, roba del genere, si giocava a fare il marito e la moglie, no? Lei cucinava e tu facevi finta di lavorare, cose del genere, insomma. Io ho fatto altre cose che adesso non vi dirò, avevo 5 anni credo. Vabbè, ciao cuore. Una cosa che mi resta a Joe Wayne, leva del cappello, che facevo a casa era una specie di grotta con solitamente con delle coperte. Ah sì sì, vabbè, quella sì l'abbiamo fatta, sì. Un nascondiglio, una grotta, un, chiamalo come vuoi tu, un posto, una bat caverna, dove portavo dentro le mie cose e lì potevo fare tutto senza essere visto dal mondo esterno. Sì, eri come isolato dal mondo e ti sentivi in un altro posto. Sì, sì, no, esatto. Questo assolutamente. Io facevo proprio tipo la tenda, praticamente. No? Sì, sì, esatto, una specie di tenda con le coperte, usavo i fucili, il giocattolo di solito. Sotto al tavolo, sì, sì, sì. Però di questo anch'io, sì, certo. No, io mi ricordo che in casa, quando eravamo più di uno... I Melanie, i Fortini, esatto. I Fortini, bravo, bravo, bravo. Quando eravamo in due o tre... Vabbè, armati di penna. Vi interrompo un attimo e facciamo questo spot, poi riprendiamo. Allora, okay. Ragazzi, domenica, giusto per... Allora, intanto per chi sta ascoltando in podcast sentiranno questo spot, questo trailer, in più ovviamente sentiranno anche lo spot di Spreaker in aggiunta, perché insomma, ragazzi, è un modo per autosostenersi. È un modo per autosostenersi. Però volevo dire che domenica alle 17:45, come sapete, saremo in diretta per la partita Italia-Galles con Eurocalcio 2021, perché sta piacendo moltissimo, ma alla fine della partita alle 21 faremo l'anteprima di Generazioni, che è un podcast che Francesco Di Muro, Lobby Frontali, sta realizzando con la sua associazione a Reggio Emilia, e che mette in contatto praticamente due generazioni, cioè la generazione dei giovani con la generazione, quindi dei trentenni, diciamo così, con la generazione di quelli un po' più anziani, dai 60-65, e in questo podcast queste due generazioni si incontrano e parlano di temi per capire su che terreni comuni ci possono essere. Ecco, noi faremo l'anteprima appunto live, cioè nel senso, come abbiamo fatto con Delenda Cartago, faremo sentire il podcast, però faremo un quarto d'ora, una piccola introduzione per spiegarlo, e poi spiegheremo anche dove potrà essere sentito, perché chiaramente non è un progetto di Runtime Radio, ma che noi ovviamente lo sosteniamo. Quindi adesso ci sentiamo un attimo questo trailer, poi perché, come abbiamo detto, per chi ascolta in podcast ci sarà poi successivamente anche un altro spot. Giulia! Giù! Giù, mica... Ma che stai facendo, scusa? Sto facendo la pasta fatta in casa, come una vera rasdora. Una che? Ma poi sta musica, in quale discarica l'hai tirato fuori quel giradischi? Ma quale discarica? Questo è un pezzo d'antiquariato. Senti che bella musica. Ascolta, io adesso devo finire di fare la pasta e poi dovrò iniziare a scrivere le lettere. Le lettere? Quali lettere? Ma poi a prescindere, cioè, manda un'email, un WhatsApp, un audio per fare prima, no? Sono più da carta e matita, in realtà. Comunque per i nostri partecipanti al podcast. Te ne avevo parlato, no? Forse sì, non mi ricordo. Che podcast, scusa? Ma sì, Francesco, te l'avevo detto che avremmo iniziato a creare questo progetto. Dai, aspetta che inizio a scrivere. Gentilissime e gentilissimi, vi invitiamo a Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo. Uno spazio in cui voi over 60 e voi under 30 avrete modo di incontrarvi e forse scontrarvi su alcune tematiche. Cibo, musica, lavoro, comunicazione... Aspetta, una cosa un attimo, ma poi sto podcast come lo trasmetti, col telegrafo? Ma no, bello il passato, ma senza internet ormai non si va più da nessuna parte. Verrà trasmesso sul canale Spreaker di SD Factory Lab e su runtimeradio.it. Ah, ma quindi un piede nel ventunesimo secolo ce l'hai ancora, non sei completamente andata come pensavo. Ma che sciocco, piuttosto Francesco vai ad accendere i microfoni. Giù, guarda che in realtà i microfoni sono già accesi. Stiamo registrando il trailer del podcast adesso. È tutta sta scenetta che abbiamo fatto, è presente? Però magari facciamo annunciare di nuovo il titolo del podcast e dove ascoltarci, da una voce un pochino più radiofonica, così rimane pure più impressa. Che ne dici? Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, SD Factory Lab e Cooperativa Sociale Rigenera presentano Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo. Un podcast di Francesco Di Muro e Giulia Merli, nell'ambito del bando I quartieri ripartono, promosso dal Comune di Reggio Emilia. Ascoltateci su Spreaker, Spotify e su tutti i principali aggregatori di podcast e su runtimeradio.it, la web radio geek. Ebbene ragazzi, insomma avete capito che questo nuovo progetto, che non è un progetto interno a Runtime Radio, ma che ovviamente noi co-sponsorizziamo, diciamo così, e sosterremo anche trasmettendolo ovviamente nel nostro palinsesto come web radio. Bene ragazzi, possiamo ritornare al nostro Squisquillius. Sì, stavo dicendo prima dello sponsor, della pubblicità. Consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. No, stavo dicendo che quando eravamo in casa anche con più persone, a parte i giocattoli, a parte tutto, esistevano comunque dei giochi che erano talmente semplici da essere, non dico quasi fantasiosi, ma è uno di questi che tutti noi abbiamo giocato, immagino, che era il famoso cose, nome, città, che bastava un pezzo di carta e la penna e passavamo pomeriggi a giocare a un gioco che sembra molto semplice, no? Però in realtà, adesso non so voi se lo chiamate così, se vi dice qualcosa. Me ne ricordo un altro che era Passaparola, che facevamo morire dal ridere. Ah sì, anche Passaparola, è vero. Quello non me lo ricordavo. Però più che Passaparola era una frase che poi finiva che... Sì, che è il solito quello che voleva fare, quello invincibile, diceva super califragilisti che spiralidoso. O comunque delle frasi, anche i giochi di società, comunque quelli in scatola. Sì, quelli però richiedevano che tu avessi il gioco certo. No? Chiaro che poi parliamo di Risico, parliamo di Monopoli. Sì, parliamo, sì, ma quelli sono giochi da tavola. Cioè, come si chiama? Il Cose Nome Città, tu dicevi che facciamo oggi? Giochiamo a Cose Nome Città. Sì, quello bastava un foglio di carta, due righe di qua, due righe di là, e hai fatto. Tu mattina partivi a giocare ed era un gioco vero e proprio che era anche abbastanza... Poi ti inventavi, no? Adesso si chiama Cose Nome Città, però in realtà noi facevamo, a un certo punto estendavamo, target, sì, della macchina, sì. Marche delle azioni, animali, certo. Sì, marche di prodotti, malattie venere, nomi di robe esplosive, esatto. Mini ciccioli raudi, esatto. Tanto per torniamo in questa categoria di giochi c'era questo, c'era quello appunto Passaparola, che era quello che dovevi dire nell'orecchio all'altro, che non serviva l'altro, nulla, lì bastava esserci, bastava, sì, essere che, presente, che doveva uscire alla fine la stessa parola che aveva detto il tizio. Più gente c'era, più la parola diventava qualcosa. Lo schiaffo del soldato, anche lo schiaffo del soldato, e il, esatto, gioco della bottiglia, il gioco della bottiglia, bottiglia, giusto, bravi, giusto. La bottiglia. Dovevi scegliere la punizione, no? Che c'erano quattro cose, ma non era la punizione necessaria, baciare lettera a testamento, ma non era necessariamente una punizione, perché insomma era dire, fare, era, baciare lettera, era un modo per approcciarsi anche a volte, certe rosicate, sì, che c'era baciare, cioè, a volte ti facevano baciare non quella che, quella che volevi, esatto, esatto. Certe rosicate, vabbè, ma anche dire, ti obbligavano a dire una cosa, esatto, che i tuoi amici sapevano, ma che tu non avevi il coraggio di dire, esatto, cioè, esatto, esatto. Sì, sì, dai, era un gioco simpatico, me lo ricordo. Ho visto benissimo gente fuggire, cose del genere. E difatti non me lo ricordavo neanche più, e mi sembrava che ce ne fossero di due varianti, cioè quella che dovevi baciare e quella che invece dovevi far, gli facevi fare delle cose allucinanti a questo qua, e mi ricordo. Dovevi scegliere tra le quattro opzioni. Invece no, è vero, era dire, fare, scegliere fra le quattro opzioni, era fare, era baciare, lo stesso gioco, lettera. Era più evoluto, vedi, io ero rimasto alla versione 1.0, ma c'era già la 3.0 in giro. Vabbè. Comunque, ritornando invece a prima, i giochi inventati, io ce ne ho uno che abbiamo inventato, ma proprio inventato di sana pianta. Non so se qualcuno vuole dire. L'avete esportato o ve lo siete tenuti? Allora, ha avuto un... Carlo Sant'Agostino ha inventato il subbuteo. Ha avuto un dischetto. Allora, si parte da questo, poi ne parliamo, perché vabbè, uno dei classici giochi che si faceva e che abbiamo fatto tutti e che non abbiamo ancora citato era giocare a carte. Sì, giocare, cioè, a carte era, io non l'ho mai... era come il pallone, no? Non è che, no. Parte c'era il pallone, d'altra è vero, era abbastanza universale, però io non l'ho mai amato tanto il gioco a carte in generale. No, a parte amarlo o non amarlo, anch'io non amavo il pallone, amavo di più le carte, c'era chi amava di più il pallone e meno le carte. Io al mare, anche per esempio, anche soprattutto al mare, mare durante le feste, comunque, durante le feste, insomma, ma in compagnia, a un certo punto non sapevi cosa fare, un mazzo di carte da qualche parte c'era sempre, no? E quindi c'erano i giochi di carte, quindi non stiamo a elencarli, ma ce ne sono tantissimi. Però di solito tra gli amici, soprattutto quando iniziavi a diventare un po' più grandicello, si iniziava a giocare a poker, magari senza soldi, ma al poker finto. No, anche con i soldi. Anche sì, con i soldi, però iniziamo prima con le fish, no? Quindi con sassolini, quel cacchio che con vuoi. Con le fish and chips. Solo con le fish blu, perché quelle rosse le imboscavi. Però di solito tu avevi il mazzo di scala 40, ok? E per giocare a poker dovevi togliere delle carte dal mazzo di scala 40, certo. No? Si toglievano, quindi i jack, tutta una serie di carte, i jolly, si toglievano delle carte che venivano messe da parte. E poi noi al mare eravamo una compagnia abbastanza numerosa e quando si mettevano in quattro a giocare a poker avanzava questo mazzetto di carte e di solito gli altri stavano a guardare quelli che giocavano a poker, per poter poi avere il turno magari di giocare a poker anche loro. Insomma, era un'attesa. Cosa è successo un giorno? Che Marco Mietta e mio fratello Paolo hanno preso questo mazzetto di carte avanzate, quindi le carte di scarto del mazzo di scala 40 del mazzo di poker, si sono messi in un angolo. Io conoscevo bene Marco e mio fratello, era mio fratello, quindi so quando volevano fare la bischerata, no? Diciamo. Si sono messi, hanno preso queste carte e Marco ha iniziato a distribuirle, ha dato tre carte a mio fratello, tre carte se le è tenute lui, ha messo giù le carte in mezzo e a un certo punto hanno iniziato a giocare, ma a far finta di giocare, nel senso che loro hanno iniziato a giocare convinti, no? Proprio con la faccia convinta. Io avevo già capito che stavano facendo una bischerata, ma gli altri no. Quelli che non li conoscevano bene, soprattutto uno, Andrea Perotti, ciao Andrea se ci stai ascoltando, che era un po', diciamo, quello che veniva anche certe volte perculato in vari modi, e lui, hanno iniziato mio fratello e Marco a giocare e iniziano a fare delle cose strane, tipo mette giù tre carte e a un certo punto Marco ne gira una in mezzo, cioè erano a messe dritte e una la gira di 90 gradi, ok? E mio fratello allora a un certo punto ne prende su una e Marco la rigira allora l'altra carta e poi pescano. Senza senso, a un certo punto mio fratello fa funz, funz, ho vinto, e tira su le carte. Ha iniziato a giocare così, ma proprio inventandosi completamente a caso le mosse. E questo Andrea si è messo lì e dice: ma cosa state giocando? E Marco: stiamo giocando a Pepsi. A Pepsi? Ma è un gioco, sì, è bellissimo, è un gioco di carte che si gioca con le carte avanzate dal poker, è un gioco bellissimo. Sono stati così convinti e così convincenti che cosa è successo? È successo l'assurdo. Cioè, da quel giorno loro si inventavano tutti i giorni delle mosse e sono nate delle regole, perché poi Andrea voleva giocarci e allora loro gli dicevano le regole del Pepsi, inventate in tempo reale, ma l'assurdità che alla fine è uscito un gioco vero, è uscito un gioco di carte stranissimo che si chiama Pepsi, di cui conservo ancora le istruzioni scritte a mano, perché a un certo punto, per ricordarci l'anno dopo come si giocava, abbiamo dovuto scriverle perché erano completamente inventate e non ci si ricordava più. Però è un gioco di carte assurdo con la mano para e la mano dispara, dove cambiano le regole. Se la mano è pari ci sono delle regole, se la mano è dispari ci sono delle altre regole, dove vince chi fa funz a un certo punto tre carte messe in un determinato modo, e ci sono tutte le regole scientifiche di questo gioco, del gioco del Pepsi, che a questo punto è iniziato a diventare famoso nei bagni di Nettuno. Facciamoci che si è diffuso il gioco del Pepsi, che è un gioco completamente inventato per uno scherzo, cioè, fammi capire, a Nettuno andavi? Bagni Nettuno, Bagni Nettuno, a Borgio Verezzi. No, pensavo andare. I bagni si chiamavano Nettuno, i bagni Nettuno, dove pensavo eravamo Nettuno, la compagnia, no, pensavo, era pensavo Nettuno, Nettuno proprio, no. No, Nettuno è la città dove vicino a Roma. Esatto. No, lui pensava a Nettuno, il pianeta vicino a Plutone. Esatto, bravo. Certo, sì. Comunque bellissimo, pubblicherò queste perché no, ci possiamo fare un'applicazione per Android, un gioco gratuito con tanta pubblicità dentro. Esatto. Il gioco del Pepsi, che poi Pepsi perché per così, perché la prima parola che quel momento si beveva Pepsi lì, no, perché la sai che negli anni 80 la Pepsi era praticamente sconosciuta. Sì, cioè, esatto, vero, hai ragione. Quindi Pepsi era un nome strano, no? Era una roba che sì, l'avevi sentita, ma e quindi era diventato quel gioco lì. E basta. Insomma, questa è la storia. Ma è l'assurdità che un gioco completamente nato per scherzo, come scherzo, è diventato un gioco con delle regole e che poi abbiamo giocato tutti. E per anni si è andati avanti a giocare. Giochiamo a Pepsi, e a quel punto si faceva apposta a togliere le carte dal mazzo per fare le carte avanzate perché si gioca con le carte avanzate quindi avanzavano sul tavolo le carte del poker. Esatto, perché non ci giocava. Perché poi, se vi ricordate, quando si giocava a poker, le carte tipo le Modiano, voi avevate poi, ricomponevate il mazzo, e avevamo un mazzo che aveva delle carte sporche, nere, brutte, una certa parte, e le altre tutte belle, nuove, no? Perché si giocava a poker, consumavano in modo disomogeneo le carte, quindi al contrario, invece erano nere tutte le altre, da voi quelle del poker erano tutte nuove, bianche. Vabbè, comunque le carte ce n'erano di giochi. Voi cosa giocavate principalmente? Vabbè, Simone niente, perché non gli piaceva. Scala 40. No, ma io giocavo a parte Mercanti in Fiera, vabbè, ma quello è più una cosa collettiva, però come gioco di carte Scopa, Briscola, 3-7 in generale li giocavo tutti. Solo che dopo a Roma ci sono le carte uguali a quelle di Milano o sono diverse? Noi usavamo le carte napoletane, cioè che però allora sono diverse, non sono cuori quadri fiori picche. No, giusto? Tu parli delle carte da poker, sono le carte da poker, cioè nel senso quelle sì. No, a Milano le carte sono quelle, Scopa, Scala 40, poker eccetera, e sono solo con cuori quadri fiori picche. Le altre sono le carte napoletane e non vengono praticamente usate. Che siete tristi, cioè quello è il problema. Siete tristi, cioè da tristezza. Io giocavo a Briscola chiamata, a Ruba Mazzetto, ad altri giochi con quelle napoletane, e poi a Scala 40 piuttosto che Colore, che era una sorta di Scala 40, c'erano tanti Teroni nel Machiavelli eccetera, giochiamo Machiavelli, con quelle, con quelle le 54 carte. Sì, no, io l'unica cosa è che dopo un po' mi rompevo le i coglioni e quindi la buttavo proprio in caciana, cioè diventava proprio fastidioso giocare con me, cioè, carte, scacchi, dama erano giochi dove bisognava avere un minimo di pazienza. A me proprio non mi piaceva il gioco delle carte in generale, cioè poi mi divertivo dopo un po', però mi scoglionavo e cominciavo a scazzare. La dama invece mi divertiva molto di più, ma anche gli scacchi, però gli scacchi è già un altro livello, bisogna sapere, cioè bisogna conoscere gli scacchi, cioè nel senso io ci giocavo per quei tre cazzo di regole che conoscevo e andavo un po' a casaccio, insomma, quindi ci giocavi perché avevi imparato col Commodore 64. Ma no, io poi alla fine giocavo a quello là, come si chiamava, Battle Chess, quello che c'erano tutte le animazioni, che era bellissimo. No, io giocavo ad Archon, che la torre si mangiava la regina, cioè era bellissimo, cioè una cosa. Il VIC-20, quindi Sargon. Anche Sargaz. Dai, c'erano anche sull'Atari 2006 gli scacchi, che tutto maiuolo c'hai una confezione particolare di Atari dove c'è il simbolo Chess Piece, esatto, perché lui spende sempre i soldi per le robe inutili. Anche Chess quello. Piece nel senso i cessi dove pisci? Ma no, è una stupidata di questo tipo. Praticamente l'Atari, quando fece la prima scatola del VCS, della console dell'Atari, mise nella scatola si vedevano tanti giochi, e tra i tanti giochi si vedeva anche un pezzo degli scacchi. Yes. Però l'Atari non aveva il gioco degli scacchi. E quindi qualcuno, non so chi, gli fece causa dicendo: avete messo gli scacchi ma non avete il gioco degli scacchi. E allora l'Atari fu costretta a cambiare la scatola, togliendo l'immagine degli scatti. Ah, pensavo che avesse fatto il gioco degli scatti. Dopo ha fatto anche il gioco degli scatti, ma purtroppo non era riuscita subito, perché l'Atari aveva 2K di memoria, 4K di memoria, quindi poi ci sono riusciti lo stesso. E poi arriva Paganini che giustamente diceva che sullo ZX80 avevano fatto gli scacchi il gioco con K, sì, anche i chess, c'ho anche quello. Basta. Poi penso che lo scacchi con un K, chi, anche un bambino di 6 anni lo batteva. Guarda che hanno fatto adesso i scacchi 128 byte, anche meno. Lo scacchio, sì, scacchio a 128 byte, mezzo SMS. Lo scacchio. Vabbè, comunque. Ragazzi, carina puntata così. In realtà poi alla fine, se ci penso, mi vengono in mente centinaia e centinaia di cose, però poi in questo momento, come sapete, è tutto obnubilato da tutto wifi, dai fumi del del coso, del perché Pfizer. Sennò m'hanno iniettato il vino. Il vino. Il vino Pfizer è quello stagionato. Vino Pfizer, sì, del è quello del 78, però è buono. È del 21, a dire la verità. Del 21, esatto, questo è del 21, del 19, proprio, se vogliamo andare. Però comunque, essere, sì, non lo so, ragazzi. Volevo chiudere un'ultima cosa che me le ho annotate adesso, ma erano delle cavolate, ma sicuramente voi avete vissuto. Ma anche il vendere le cose, mettersi lì a vendere. Come no. Io facevo pure le limonate, la bancarella che è limonate, figurati, insomma. Bancarella, i fumetti, i giornaletti. Adesso ti arrestano se lo fai. Quindi. Adesso probabilmente si ti arrestano. Hai la partita IVA? No, veramente. Bimbo, bel bimbo, hai la partita IVA. Ma tu dichiari? Ma cosa? No, mi ricordo che vendevamo tutta la roba, e poi mi ricordo che anche andare alla standa o al Lupin, perché all'epoca c'era la standa e Lupin, era come andare a giocare, cioè come partivamo, perché non erano proprio sotto casa, andavamo in gruppo a vedere sti magazzini e rimanere a bocca aperta. Eravate provinciali, quindi ecco, ha parlato The Citizen, capito? Cioè. The Citizen. Voi ce l'avevate lì, la standa per voi era come andare in latteria dietro casa, sì. No, loro andavano a rubare con la pistola, esatto, no, ma senza rapine. Pistola, le rape, si diceva le rape, andiamo a fare la rape. E poi vabbè, non abbiamo citato, ma lo cito, la caccia al tesoro, dove noi riuscivamo a fare delle organizzazioni di caccia al tesoro memorabili. Si partiva all'inizio con delle cavolate, ma poi ci si organizzava con degli enigmi da paura, cioè, due gruppi separati che avevano due giri da fare diversi con gli stessi enigmi, ma c'era da viaggiare, anche cambiare cortile, cambiare giardini. Enigmi alieni. Ah sì, ma come si chiama quel gioco che tu dovevi far trovare un oggetto, che però dove si disseminavi il percorso di enigmi, come dicevi te. Era proprio quello lì, dove era Caccia al tesoro, bravo, ok. Sì, per cui noi alla fine andavamo in altri cortili, in altri posti. In altri pure, scusa Davide, pure te lo ricordi quell'altro gioco che tu dovevi far trovare un oggetto a una persona e nel percorso disseminavi tutti gli enigmi, no? Sì, era caccia al tesoro. è andato, l'abbiamo perso. È partito in loop. No, comunque. Libera. Il latte è buono, ma se è in bottiglia, cazzo ne so, no? Allora c'era da andare in latteria, andare ad alzare le bottiglie del latte, trovare il bigliettino sotto di quell'altro, e delle volte il bigliettino non c'era, perché tu arrivavi e qualcuno aveva comprato la bottiglia di latte, cazzo è sto fogliettino, via, e finiva lì il gioco a metà strada. Sì, però, perché andavamo a cercare le cose più estrose, no? Vabbè, no, io quando mettevo il foglietto, però lo dicevo, cioè, mamma, nonna, zio, cugini, Zoff, Gentile, Gabrini, chi era, io gli dicevo, guarda, metto questa cosa qui perché stiamo facendo questo. Ma io li mettevo in latteria di sfrodo, entravamo poi dentro. Poi tu considera che Tomaiuolo prendeva gli enigmi direttamente da Radio Londra, quindi cioè, la barba, esatto, è bionda, credo così. Il pappagallo è rosso. Maometto non è Maometto, no, cos'è? No, cosa ha baciato Maometto? No, Andreone, Giacomone, sì, ha baciato Giacomone Maometto. Ha baciato Maometto, sì, è vero. E, cazzo, boh. Io quando l'ascolto quel pezzo lì mi affascina sempre, mi piacerebbe sapere che cosa vogliono dire quelle robe. Se ne sanno di due o tre. Ce l'ho messo apposta, quel pezzo è, come posso dire, interessante, si fa ascoltare, se lo ascolti 100 volte, lo riascolti 100 volte. Sì, lo ascolto sempre la sigla, la trasmissione è molto... Non la lasciamo perdere, però la sigla... La trasmissione è fatta dalla trasmissione e anche dalla sigla. La sigla fa parte della trasmissione, tutto sommato. Cioè, si ascolta tutto. Bene, bene, bene. Dai, ragazzi, abbiate pazienza, io non sono in condizione di andare oltre. Rispondo. Ma chi tocca la prossima volta? Aspetta, un secondo. Con ordine e con calma, rispondo... Ha una domanda di Michele Bancheri che mi scrive che stava ascoltando la puntata 09, quella sulla TV dei ragazzi. Ad un certo punto io, cioè lui fa riferimento a me, parlo degli sceneggiati di TV e dico che gli esterni erano più costosi perché venivano girati in pellicola, mentre gli interni venivano fatti in video. Che vuol dire? Cosa si intende per fatti in video? Non venivano sempre usate le pellicole? Non lo so, sono ignorante. No. Vabbè. Allora ti spiego: fondamentalmente dipende dalla tipologia di produzioni. Quando si trattava anche di serie televisive che si facevano già allora, prendiamo Pinocchio, no? Che era comunque un'opera costruita per la televisione, ma veniva realizzata come un'opera cinematografica, con determinati costi, con determinati asset, determinate maestranze, e quindi veniva prevalentemente girato tutto quanto in pellicola. Le opere invece nate esclusivamente e precisamente per la televisione, quelli che venivano fatte nei teatri di posa, poi fondamentalmente negli studi, negli interni dove si costruiva questi set, che poi fondamentalmente erano quasi sempre quelli per tutta la durata dello sceneggiato, o quante erano le puntate dello sceneggiato. Mettiamo uno Sherlock Holmes, no? Metti uno Sherlock Holmes, praticamente se c'erano quei tre set che più o meno erano sempre quelli, e tutto veniva girato in studio con quelle che erano le videocamere di allora, che quando si parla degli anni 60 già cambia un pochino degli anni 70, ma quando si parla degli anni 60-70 le videocamere non sono le videocamere come puoi pensare anche magari successivamente, quelle che te portavi a spalla, erano dei casermoni giganteschi che prevalentemente dovevano essere accese 24 ore su 24, perché avevano anche dei problemi proprio anche di avviamento, diciamo così, quindi insomma avevano dei costi strutturali anche importanti, e quindi se all'interno di quello sceneggiato, che per necessità di costi di produzione veniva girato comunque tutto in studio con le videocamere che esistevano, a volte c'era la necessità di fare delle inquadrature esterne, tipo una passeggiata sulla strada, un tizio che doveva andare al tabaccaio, roba del genere. Quelle cose non potevano essere girate con le stesse videocamere, quindi su un nastro, così come si è usato insomma negli anni 80 e 90. Ma venivano girate in pellicola, perché chiaramente quegli strumenti, quegli assets non potevano essere trasportati all'esterno. Infatti, diciamo, quando tu vedevi gli unici eventi che venivano ripresi con queste videocamere, quindi in analogico, non in pellicola, però diciamo proprio con le telecamere proprio studiate per la televisione, di solito erano gli eventi sportivi, dove comunque questi asset, questi strumenti alla fine erano fissi in determinati punti, venivano alimentate in una determinata maniera e quindi potevano tranquillamente, però per fare delle riprese esterne, per piccole inquadrature, tutta sta roba non veniva spostata, anche perché triplicavano i costi fondamentalmente, quindi di considerare. Molte cose, quasi tutto all'epoca veniva girato in pellicola, qualora ovviamente c'era una produzione dietro, quindi un finanziamento, un budget dietro. Quello che invece veniva fatto con i budget della televisione veniva realizzato con le videocamere, quindi proprio con le telecamere, quelle proprio classiche. E tu questa cosa poi la intravedi, te ne rendi conto sul tipo di pasta visiva che ovviamente ti rende l'immagine. Se tu prendi un qualsiasi sceneggiato dell'epoca, uno sceneggiato Rai in particolare, tutti gli interni hanno diversi problemi anche sull'illuminazione, su alcune immagini bruciate, sugli aloni che si vedono, e quelli sono tutti difetti che i sensori video di allora c'avevano, perché per oggettivi limiti tecnologici, chiaramente, no? Cose che in pellicola queste cose non esistevano, per esempio. Certo, e devi anche considerare che c'era anche un frame rate diverso, quindi lo notavi. Lo notavi, è chiaro, perché comunque l'analogico video era 50 fotogrammi interlacciato, mentre che invece la pellicola era 24 fotogrammi progressivi. Esattamente. Cioè noi oggi li chiamiamo progressivi, allora era il fotogramma. Allora, 24 fotogrammi. Fotogrammi, basta, esatto, però, esatto, perché comunque era il fotogramma secco, insomma. Quindi. Esatto. Quindi ecco, se tu ti riguardi un vecchio sceneggiato Rai, ma a volte anche, che ne so, le opere di Filippo, a meno che non sono proprio quelle girate in teatro, ti rendi conto e vedi la differenza tra le inquadrature esterne e le inquadrature interne. Insomma, quindi io facevo riferimento a sta cosa. Mi piace che mi hai fatto questa domanda, perché magari non l'avevo specificato bene, non l'avevo approfondito. Se non ti è chiaro, poi mi contatti in privato e te lo spiego meglio, insomma. Questo è. E invece, per quanto riguarda Runtime, domani sera alle 23:30, come al solito, ci dovrebbe essere Runtime by Night, ma devo vedere veramente come sto messo, perché faccio fatica a pensare di dover fare una trasmissione. Ma sicuramente domenica alle 17:45 Italia Galles la seguiremo noi, Runtime Radio, con Le Stupide Creature, questa bellissima produzione che stiamo facendo. C'è anche Carlo, che forse riesce a rimediare anche un Commodore 128 stavolta. Non sappiamo, sì. Non sappiamo, sì, bene, che non, cosa... non arrivo ancora ai 16 bit, ma... esatto, quindi non sappiamo come andrà a finire, però sarà ovviamente divertente come al solito. Veramente stiamo ricevendo molti feedback positivi e ci fa piacere, perché comunque immaginate che lo sforzo costruttivo di un prodotto del genere, insomma, non è poi stupido. E la sera, come ho detto, insomma, dopo la partita alle 21, io e Francesco presenteremo appunto Generazioni, che è il podcast di cui avete sentito lo spot, che non c'entrano niente con le generazioni di console, che non, assolutamente, e nemmeno con Star Trek e neanche con quelle di Star Trek, forse più con quelle di Star Trek, secondo me, che quelle dei console. Detto questo, a chi tocca la prossima settimana? Mi sa che tocca a te, Simone, se non no, Roberto. Allora io ho fatto quella prima, l'ho fatto quella io prima. Ho fatto Yoda, lui ha fatto Yoda, quindi o sta a Carlo o sta a me, sta a me. Quindi tocca a me? Che ne so? Non lo so, non mi ricordo. Cosa abbiamo fatto? Facciamo l'elenco. Abbiamo fatto Yoda, eri tu. Davide, prima di Yoda cosa c'è stato? C'è stata quella da TV dei ragazzi, che era la mia. Quindi tocca a me. No, allora, aspettate, facciamo così. Abbiate pazienza un secondo, vado un secondo su Spreaker, così almeno lo vediamo al volo, insomma, perché sennò sta cosa poi diciamo delle boiate, vabbè, che non è che è tanto diverso da tutto quello il resto che facciamo di solito, insomma, però... Se Skype si leva dalle balle, perché questi cazzo di finestre in pop-up, così tanto per gradire. Adesso vi dico semplicemente che, a parte che se riusciremo a mettere lo store nel sito di Runtime, c'è la bellissima maglietta di quando eravamo futuro, ragazzi, compratela, perché è veramente bella. Allora, la precedente era la 11 Yoda contro, va bene. La 10 era quella delle sigle, quindi è quella di Carlo. Allora tocca a te. E la 9 è quella di della TV, quindi è quella mia, quindi tocca a me. Bene, ragazzi, parleremo proprio di pellicola, quindi vedete che alla fine si ricollega involontariamente questa cosa, quindi avrei potuto risponderti la prossima puntata, però vabbè, non fa niente. Anticipato. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostinus. Ciao a tutti, ci vediamo domenica con il nuovo Commodore. Esatto. Davide Gatti. Buonasera a tutti. Sto montando i nuovi episodi di Survival Hacking, per cui tra breve ricomincia l'ottava stagione di Survival Hacking. Sto riuscendo a farcela con fatica, ma sto riuscendo, e quindi ci sentiamo anche su quel canale con qualcosa di nuovo rispetto a quanto stiamo sentendo, che è un po' di roba di storica, ma comunque dai, arriverà anche qualcosa di nuovo. Benissimo. E Roberto Tomaiuolo e il suo Delenda Cartago, ogni martedì alle 14 esce un nuovo episodio in podcast su tutti quanti gli aggregatori, ovviamente tranne Apple iTunes, perché sono stronzi, però forse ho risolto il problema, quindi probabilmente da lunedì o martedì lo trovate anche su iTunes, se no Spotify e tutti gli altri, insomma è assolutamente più che raggiungibile. Ciao ragazzi, grazie mille. Prego, però non essere triste. Sono tristissimo, è un momentaccio. Quando finisce la trasmissione. Tragedia. E gli abbiamo fatto evocare tutte le disgrazie capitate da quando era ragazzino. No, ma in realtà è quando finisce, quando eravamo futuro, che è una cosa triste, insomma. Va bene, dai ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo con la mia puntata, e quindi si parlerà di come immortalavamo le cose e vedrete che ci sono grandissime differenze. Perché parlando con la gente, io mi sono reso conto che, cioè, per me, io do per scontato che oggi c'è una differenza, no? Tra l'analogico e il digitale, tra la pellicola e il sensore video, via dicendo. E la cosa che mi fa specie è che invece c'è gente che non lo sa, perché pensa che quello che c'è oggi è quello che c'è sempre stato, insomma. E questo un po' mi incuriosisce, quindi sarà carino parlare di questo e sentire anche poi le esperienze di tutti quanti. Stavi dicendo, Roberto? Stavo dicendo io che oltre a quello c'è anche gente oggi che dice era meglio prima. Era meglio quando si andava, quando stava peggio. Dai, Carlo, con la pellicola. Non è vero, è solo una questione di... Non lo dico neanche, perché ormai cosa dico a fare? Esatto, esatto. Cosa si spreca il fiato? A dirci buonanotte. Quando si stava peggio. Ciao ragazzi.